Buonasera da Maurizio Melis. Se c'è una cosa che noi italiani ci riconosciamo è la nostra attitudine per il bello e per il saper fare delle cose belle. Se c'è qualcosa che invece non riusciamo a vedere sono le tante eccellenze in campo tecnologico che, nonostante un paese che investe pochissimo in ricerca, sono numerose e agguerrite. Ecco perché stasera vogliamo parlarvi di un oggetto che, insomma, se dovessi scegliere uno slogan per promuoverlo, definirei il bello della tecnologia, nel senso che è proprio un esempio di come il nostro sapere nel campo del design possa unirsi a competenze tecnologiche d'avanguardia e produrre qualcosa di valore. L'oggetto si chiama E-Cubo ed è stato progettato dall'architetto Romolo Stanco in collaborazione con RSA, che è appunto Ricerca Sistema Elettrico ed è un grande istituto di ricerca italiano specializzato nelle tecnologie avanzate per il mondo dell'energia. E Romolo Stanco è in linea con noi. Buonasera. Buonasera. Dunque, allora, questo E-Cubo è appena tra l'altro stato presentato ad Abu Dhabi all'interno del padiglione Italia del World Future Energy Forum ed ha riscosso un grande successo. Piace così un po' a colpo d'occhio. Ci faccia capire allora di che cosa si tratta. Si tratta di un'architettura off-grid, di un elemento architettonico, di un cubo di 5 sì. metri di lato, sì. Il cui involucro esterno è completamente realizzato da una pelle fotovoltaica mm-hmm. che gli permette di immagazzinare energia e di renderla disponibile sotto varie. Cioè, il fotovoltaico la produce, poi avete anche degli accumulatori all'interno di questo cubo, no? Per cui, insomma, lui eroga energia anche di notte dopo averla magari accumulata di giorno. Però non è solo una centrale elettrica. No, è un elemento nato per la città, è un elemento che appunto si configura come una vera e propria architettura multifunzionale, il cui interno è appunto visitabile e utilizzabile con funzioni differenti, che possono andare da un piccolo bar a un punto informativo a qualunque tipo di funzione necessiti di energia dove quell'energia non è disponibile. Quindi voi lo potete piazzare in centro a una piazza e farci un festival della cultura, potete piazzarlo in centro a un deserto e farci una centralina, per intendersi, per dissalare l'acqua. E lì dentro ci si fa il locale tecnico a quel punto. No? Certo, uno dei temi ad esempio è stato anche di una piccola clinica, ad esempio di un centro medico in zone non raggiunte da energia, che però in questo modo avrebbero la certezza di avere sempre una disponibilità di corrente anche svincolata ad esempio da generatori a gasolio o sistemi che comunque necessitano di energia dall'esterno. Questo è uno dei temi che è venuto fuori proprio lì ad Abu Dhabi, se ho capito bene, no? Dove sì. sono venute fuori delle possibili applicazioni alle quali voi effettivamente non avete neanche pensato, almeno inizialmente. Ma il progetto è nato come un progetto urbano, quindi come un progetto legato alle smart city. In realtà tutte le volte che lo abbiamo presentato abbiamo avuto delle suggestioni di tipo diverso. Ad Abu Dhabi il tema deserto ovviamente è venuto fuori più di una volta, quindi il fatto di poter avere una disponibilità di energia e al tempo stesso di un riparo, no? In un certo senso è stato comunque uno dei temi più interessanti, soprattutto per quel tipo di mercato. Dicevamo, tipo di mercato che però è colpito anche appunto dalla bellezza estetica, puramente dalla bellezza estetica, io credo che lì c'entri veramente molto, no? E qui torniamo al tema di cui parlavo all'introduzione, questa capacità di mettere insieme il bello e anche l'alta tecnologia, perché quel cubo è infarcito di alta tecnologia, che è una strada forse da battere un po' di più in questo paese. Ma sì, il tema è stato sicuramente quello di non creare un oggetto tecnico, ma di realizzare un prodotto architettonico di qualità, di design, di stile italiano. La creatività legata a un oggetto concreto ritengo che abbia potuto combinare quelle caratteristiche tipiche della ricerca italiana che, come diceva, sono presenti in un istituto come RSE e accidenti a livello internazionale. Assolutamente. In un simbolo di quello che per anni siamo stati capaci di fare, ovvero far passare il bello, lo stile italiano, non soltanto in una forma così gratuita, ma anche in un oggetto funzionale che serve a qualcosa. Ecco. Possiamo dire che, insomma, le grandi cattedrali sono soprattutto delle grandi opere di ingegneria, no? I grandi architetti erano una volta anche dei grandi ingegneri. Questo forse sta anche un po' tornando, o sbaglio? Ancora di più credo che i grandi architetti, o comunque chi fa design oggi, debba capire che dialogare con gli ingegneri, con i ricercatori, con i fisici, possa portare un valore aggiunto al progetto proprio nella fase embrionale, nella nascita dei progetti. È quello che abbiamo fatto col progetto I Cubo, luogo che è nato dall'architettura, ma contemporaneamente da un lavoro sulla ricerca nel campo dell'energia e non da un'implementazione successiva. Questo credo che sia un ottimo tema proprio per l'architettura delle città di domani. Grazie Romolo Stanco. Grazie a voi. E se volete vedere Ecubo, ne vale la pena, lo trovate su internet, si scrive ECUBO. A domani.